Gli speciali di Radio 24. Giurami che tu ami solo me, pupa non scherza, io non ti credo più. Giurami che tu ami solo me, pupa non scherza. Voglio il tuo amore solo per me, se no ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, ti dirò mamma devi non tornare mai più. È il 1958. Due giovanotti colgono lo spirito dei tempi e lo spirito di quei tempi comincia a essere il rock and roll. Lo fanno a modo loro cantando in italiano. Questi due ragazzi sono Adriano Celentano e Giorgio Gaber, che così canteranno questa Ciao ti dirò insieme qualche annetto dopo. Così iniziava la carriera di Giorgio Gaber e noi questa sera passeremo idealmente 2 ore con lui, con le sue canzoni, con le persone che più lo hanno amato e meglio lo hanno conosciuto. Io sono Marta Cagnola, vi terrò compagnia fino alle 23, siamo in diretta per questa serata speciale nella quale vorrei davvero sentire la vostra presenza per ricordare insieme Giorgio Gaber, quello che ha rappresentato e che rappresenta per voi. Quindi vi ricordo il numero al quale potete sempre inviare i vostri messaggi SMS e davvero li aspetto questa sera al 349-238-6666. Potete anche chiamarci e intervenire in diretta al numero verde 800 24 00 24, ma abbiamo anche una mail che abbiamo aperto per l'occasione e oggi già ci sono arrivati dei messaggi bellissimi a iocongaber@radio24.it, ma ci raggiungete anche su Twitter, anche qui stanno già cominciando a arrivare messaggi, basta collegarsi al mio account @MartaCagnola. Siamo in diretta, lo potete vedere anche controllarlo via webcam, potete vedere che io non sono da sola, ma avrò accanto a me per tutto questo speciale delle persone davvero importanti. Comincio a presentarvi Paolo Dalbon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber, buonasera. Buonasera. E poi Dalia Gaberschik, la figlia di Giorgio Gaber. Buonasera, buonasera Dalia. Buonasera Marta. C'è un'altra persona, ma vi dico dopo chi è, vi lascio la sorpresa, non ve lo presento ancora. E poi ci terrà compagnia la musica, scopriremo insieme per la prima volta alcuni dei brani che compongono il più grande tributo della musica italiana a un artista. Io ci sono. Io ci sono è una raccolta molto grande, molto importante, perché Dalia è il più grande tributo mai organizzato. Non si erano mai visti 50 artisti per un artista solo. Ma forse perché siamo partiti con l'obiettivo di raccogliere un po' il meglio di questi 10 anni in cui questi 10 anni senza Gaber, quindi insomma abbiamo potuto attingere a delle collaborazioni che si sono sviluppate in questi 10 anni, facendo tesoro di tutte le manifestazioni che la Fondazione ha organizzato e alle quali manifestazioni hanno tutti sempre aderito con grande entusiasmo, dicendo per l'appunto per Gaber io ci sono, da cui il titolo del triplo CD. E chi l'ha inventato il titolo di questo triplo CD? Io so che l'ha inventato una persona che è seduta qui accanto a me, il nome già mi suona familiare, Lorenzo Luporini, buonasera. Buonasera Marta. Allora, Lorenzo Luporini è il figlio di Dalia, quindi il nipote di Giorgio Gaber. Come hai trovato, come hai deciso che il titolo di questo grande tributo dovesse essere Io ci sono? Oh, piano, deciso, proposto. Proposto, sì, la mamma subito, cioè, proposto, ragione. Beh, a dire il vero è successo che mentre mi sono trovato a tradurre un testo che io come persona, che poi ha interpretato Patti Smith insieme a un'amica della Fondazione Gaber che è Greta Bertella, questa frase del io ci sono mi ha colpito, ci ha colpito, e mi è sembrata una buona idea proporla al generale mamma per vedere se poteva essere un'idea come titolo. E evidentemente è piaciuta, quindi sono molto contento. Lorenzo, quindi promosso. Lorenzo, promosso. Per te cosa rappresenta la presenza di un nonno così importante nella tua vita e l'assenza purtroppo anche? È impossibile dire che mi riempia di orgoglio, io sono veramente orgogliosissimo di mio nonno, dei miei nonni. Sicuramente è amareggiante pensare a quanto poco io l'abbia conosciuto, perché io sono... l'ho conosciuto poco mio nonno personalmente, paradossalmente l'ho conosciuto più attraverso il suo lavoro. Sicuramente aver avuto un nonno come Giorgio Gaber, aver avuto poche occasioni per, come dire, conoscerlo e crescere con lui è sicuramente un'amarezza. Dalia, che bravo questo ragazzo. Ah, sì, al suo esordio poi, veramente bravissimo. Sì, in radio non si vede ma sto sudando, non mi preoccupate. No, non lo raccontiamo, non lo diciamo. Ah, ma cominciano ad arrivare già i messaggi alla 349-238-6666. Ah, che bello, Gaetano, Bologna da Vasto ci scrive, che ci scrive per farci compagnia e ci ascolta per farsi una cultura su Gaber, per adesso non ne so molto. Mi piace. Quindi abbiamo la responsabilità, Presidente, abbiamo la responsabilità Bene. Di far conoscere Gaber in queste due ore. È una responsabilità, insomma, piuttosto delicata. Francesco D'Alassio, strepitoso, un amico immortale. La ballata del Cerutti, semplicemente unica. La ballata del Cerutti. Allora, iniziamo da questa prima fase. Io appunto ho deciso di partire da questa Ciao ti dirò, che è poi la prima traccia del tributo, non a caso, perché siamo appunto nel 58, quindi siamo già agli albori degli anni 60, se è vero che i decenni iniziano con l'otto del decennio precedente. C'è una storia divertente anche su questa Ciao ti dirò, perché insomma, firmata Reverberi Calabrese, ma era davvero loro? Ma non lo so, però secondo me le firme che avevano inventato questa canzone erano altre. Infatti Gaber ha voluto scrivere scritta con Luigi Tenco, anche con Reverberi Calabrese, ma è un Gaber Tenco, ovviamente allora erano giovanissimi, forse non neanche iscritti alla SIAE, quindi dovevano per forza avere dei prestanome che comunque davano anche il loro contributo, e quindi effettivamente è un Gaber Tenco, non a caso. Beh, un Tenco che effettivamente noi a volte ci ricordiamo sbagliando come un'anima malinconica, non lo era, perlomeno era stato anche un rocchettaro, anzi aveva anche dei nomi d'arte particolarmente incisivi in questo senso. Assolutamente, ma c'era anche un rapporto di amicizia molto stretto fra Giorgio e Luigi. Cosa sono questi anni? Questi anni per Gaber, per Milano, sono degli anni particolarmente interessanti. Confessiamo, abbiamo chiacchierato prima di entrare in studio, io dicevo che bello sarebbe stato poter respirare un po' l'aria di quegli anni, non so, mi viene in mente il Santa Tecla, questi luoghi mitologici che noi non abbiamo visto, non abbiamo vissuto. Sono luoghi dove è passata davvero la storia della nostra cultura, la storia musicale del paese. Effettivamente erano anni talmente fertili, talmente ricchi di stimoli, e sicuramente Gaber è stato uno di quelli che ha dato voce a questi stimoli, e quindi ha vissuto proprio il periodo dove nasceva una nuova cultura musicale. Andrea da Oderzo stava per uscire ma ci ha sentito e stasera resta a casa ad ascoltarci, sono molto contenta che ci voglia far compagnia. Grazie. Stefano da Verona, Giorgio Gaber con il suo teatro canzone mi ha fatto diventare un uomo con valori profondi, laici, liberali, ma mi ha insegnato anche la forza della critica, della polemica, dell'analisi della vita in tutte le sue forme, grazie Giorgio. I nostri ascoltatori sono tosti, sono attenti. E poi Paola scrive: un uomo che da sempre, ascoltando la sua voce, parlava della vita quotidiana di tutti noi. Effettivamente faremo più di un riferimento anche alla storia d'Italia, alla storia degli italiani. Ma siccome il nostro ascoltatore prima, Francesco D'Alassio, aveva citato la ballata del Cerutti, io ascolterei un frammento di questa edizione. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamava Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago. L'ho riconosciuto Roberto Vecchioni. Dalia, che cos'è questa canzone? È sempre parte di questo tributo Io ci sono, una canzone del 61, Gaber Simonetta. È anche qui un binomio particolarmente importante. Non so se tu, Dalia o Paolo, volete raccontarmi un po' di cosa... Io racconterei più volentieri della versione di Vecchioni, anche per sottolineare che nel 64 io, quando cantava mio papà, non c'ero, e vorrei che fosse... Sì, è vero, è vero, vero. No, mi ricordo che tutta questa fase di questo periodo, di queste canzoni, erano divertentissime. Era forse il repertorio che poi storicamente passa come il repertorio più leggero, però all'interno di queste canzoni semplici, da Torpedo Blu a la stessa Le strade di notte, Barbiere Champagne, ecco, erano, ma pensa a te, delle canzoni molto allegre e divertenti, e mi facevano morire da ridere. In particolare ce n'era una con un fischietto, una pernacchia, che si chiamava Go Ganga, e io piccolina quando la sentivo veramente impazzivo da ridere. Era sicuramente il periodo più facile forse del repertorio artistico, però a guardar bene già lì dentro c'erano delle idee che forse erano già allora un po' rivoluzionarie, no? A proposito di canzoni leggere, abbiamo un'ascoltatrice, abbiamo Gabriella da Perugia. Buonasera Gabriella. Buonasera. Gabriella, qual è la sua preferita? Allora, Gaber non ce n'è una, ce ne sono a decine delle canzoni belle di Gaber. Però quella che più... Io ho fatto la babysitter in quel periodo a una bambina e gli cantavo, perché l'avevo sentita e vista anche, no? Alla televisione, con gli annacci, quella che dice: signora, non ci siamo capiti, che si ballava. Una fetta lì, ma che brava Gabriella, ce l'ha anche cantata. Adesso questa bambina c'ha 20 anni passati, mi chiama e mi dice: Gabriella, ho visto Giorgio Gaber alla televisione che cantava con gli annacci, due pazzi, perché erano... Gaber è molto comico, anche, non è... E allora, quando dice: io, signora, sta a sentire quel che ti dico, ai tuoi baci dico no, no, no, no, ma visto che tu insisti... La sa parti, tutta, Gabriella, la sa tutta. Le proposte, una fetta di limone nel tè. Gabriella, la ringrazio davvero. Bambina, esatto, ma io mi sarei così scatenata. Grazie Gabriella. Adesso me la fate sentire? Adesso la cerchiamo, perché ce l'abbiamo. Ecco. Adesso la faccio cercare a Pietro Lacorte, al quale le confesso, signora Gabriella, che ho tutto l'elenco, e faccio cenno a Pietro con le canzoni. Però quindi abbiamo bisogno di qualche... Dobbiamo anche dire alla signora che questa che abbiamo noi nel triplo CD, signora mia, è una versione un po' diversa, nel senso che Iannacci, che la interpreta, e non poteva ovviamente che essere che lui, ha scelto una vena del tutto diversa da quel rock and roll scatenato che ricorda lei, che forse è più allegro e più divertente, forse varrebbe la pena di trovare quello. Questa di Iannacci è una versione un po' dispiaciuta, un po' addolorata, che ha dentro un grande dispiacere probabilmente di doverla cantare da solo, ecco, penso io, poi bisognerebbe chiederlo a lui, però è una versione un po' diversa quella che abbiamo nel CD. Quella allegra la dovremo reeditare prima o poi. A me ha molto stupito questa versione, perché io non la conoscevo e mi ha davvero lasciato davvero così un po' stupita. Io ringrazio la signora Gabriella, tra poco sentiremo anche la canzone, abbiamo in linea anche Gaspare da Bergamo. Buonasera. Buonasera. Lei, mi dicono che ha un ricordo di grande emozione e commozione. Sì, emozione e commozione, semplicemente perché pochissime canzoni sono riuscite a penetrarmi emotivamente e a farmi piangere. E una di queste, Qualcuno era comunista, sempre del teatro canzone di Gaber. Però volevo ricordare anche che Gaber non è stato un semplice cantante, è stato anche un grandissimo attore, assieme sempre agli Iannacci. Solo loro due in Italia potevano fare le figure di Estrigon e Vladimir di Aspettando Godot. Quindi sì, due grandi Io lei ha visto Gaber a Bergamo? Vado a sdraiarmi. Ci ascolta. E a sentire questo programma, vi ringrazio per questo regalo. Signor Gaspare, c'era Paolo Dalbon che voleva sapere se l'ha visto a Bergamo. Al Donizetti di Bergamo è venuto? Sì, non potevo non vederlo a Bergamo, sì. Stiamo parlando di qualcosa come 14 anni fa. Sì, anche un po' di più, ma ogni anno erano 10 repliche straesaurite in uno dei teatri più belli d'Italia. Passano come chili, certe volte non riesci a quantificarli. Grazie Gaspare, noi allora ci ritroviamo ancora tra poco con gli ascoltatori, con i nostri ospiti e appunto con questa versione davvero a sorpresa di Una fetta di limone. L'ascoltiamo tra poco. Signora, non ci siamo capiti, signora, sta a sentire quel che ti dico. Signora Gabriella che ci ha chiamato prima, cosa pensa di questa straordinaria versione di Enzo Iannacci di Una fetta di limone? Per chi si fosse collegato solo in questo momento, stiamo passando 2 ore, staremo insieme fino alle 23 in compagnia di Giorgio Gaber con le sue canzoni straordinarie, tutte con queste versioni davvero speciali che sono contenute in un triplo CD che uscirà martedì, che noi riusciamo a rubacchiare già in anticipo, a farvi scoprire in anteprima. Io ci sono, il titolo di questo grandissimo tributo, il più grande tributo finora mai realizzato dal mondo della musica italiana per un artista. Ne stiamo parlando con 3 ospiti. Abbiamo Paolo Dalbon della Fondazione Gaber, il presidente. Abbiamo la figlia e il nipote. Abbiamo Dalia Gaberschik e Lorenzo Luporini, che tra poco ci spiegherà anche che cosa ha fatto in questo CD, perché qualcosa di molto importante e anche piuttosto delicato, però glielo chiederemo tra poco. E poi i vostri interventi, le vostre telefonate in diretta all'800 24 00 24, gli sms ne stanno arrivando davvero tantissimi al 349 238 6666, c'è un indirizzo email che potete utilizzare questa sera per mandarci le vostre testimonianze, io con Gaber, @radio24.it, e stanno arrivando anche a profusione Twitter al mio account @MartaCagnola. Abbiamo sentito questa straordinaria versione di Una fetta di limone. Che cosa può essere una canzone di un grande artista trasformata da un altro grande artista come Enzo Iannacci? Io intanto vi voglio leggere un po' di sms, perché altrimenti me li perdo, perché sono davvero tanti tanti tanti. Allora, Giuseppe da Roma: ancora oggi mi commuove Porta Romana, la malinconia e la realtà della gioventù di quegli anni. Qualcuno anche su Twitter aveva parlato di Porta Romana, adesso ve lo trovo. Da 23enne quale sono, scrive Federico Gaudenzi, mi rimane solo un velo di nostalgia quando passo per Porta Romana per un passato che ho mancato. Paolo: Gaber amato da mio padre, suo coetaneo è scomparso poco prima di lui, poi da me e mia moglie, ora mio figlio di 6 anni canta Goganga. Ho avuto l'onore di stringergli la mano in camerino dopo un teatro canzone di grandissima intensità. Era credo il 93, l'emozione di tutti, per qualcuno era comunista, per la nave indicibile. Un abbraccio ai familiari, scrive Paolo. E poi Pietro: è bellissima la versione di Iannacci della Fetta di Limone, grazie per ricordarci Gaber. E poi ancora: non arrossire, ero ragazzina ma ogni volta era un brivido. Qualcuno ci aveva scritto che è stata la canzone del primo bacio, non arrossire, eccola qua, per me soprattutto la canzone che ha accompagnato il primo bacio, ci scrive qualcuno via email. E poi sono tanti, in tanti ci chiedono Destra e Sinistra, perché dicono che è la più attuale. Una vita accompagnata dalle sue canzoni, anche dal suo teatro indimenticabile, Il Grigio, monologo sostenibile solo da lui, Daniela sottolinea anni 72. Gaber: quando l'ascolti cantare, tra tutte le altre emozioni, ti dà l'idea di essere un po' tutti milanesi e ci piace moltissimo. Insomma, è proprio difficile leggere tutti, perché stanno davvero davvero arrivando a valanga. Comunque poi ve li do tutti questi messaggi, sia insomma grazie, ecco, ci teniamo molto, perché, certo. Perché ci sono anche molti abbracci e molti saluti per voi. Allora, io adesso però vorrei sentire insieme a voi, insieme agli ascoltatori, insieme ai nostri ospiti, un altro estratto di una canzone che, vi dico subito, faccio proprio come si dice al giorno d'oggi, coming out. Ho scelto perché è quella alla quale sono legata di più, quella che piace di più a me. Sentiamone un estratto. Mi ricordo una mia meraviglia e forse l'allegria di guardare quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'onda che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, veramente troppo pieno, e questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni, non fa più male a nessuno. Quando è moda, quando è moda, quando è moda. Moda. Non so cos'è successo a queste facce. Ma ragazzi, ma davvero questa canzone non è stata scritta l'altro ieri? Cioè, è ancora. Sembra davvero. Ma è di un'attualità. Un po' stupefacente, un po' anche allarmante, perché vuol dire che tutto sommato siamo ancora lì. Cosa mi dite? Che era sempre molto in anticipo, Gaber, effettivamente. Tutto quello che ha scritto è attuale, è veramente sorprendente, non c'è nulla che sia fuori tempo. Questa versione bellissima contenuta in Io ci sono è della PFM, e noi ci colleghiamo subito al telefono con Franz Di Cioccio. Buonasera Franz. Buonasera, ciao a tutti. Voglio salutare Dalia, Paolo e anche Lorenzo. Ciao Franz. Volevo dirvi una cosa, io ho seguito dall'inizio la trasmissione, state facendo uno dei più grandi regali che l'Italia potesse ricevere, guarda, questa sera. È bellissimo, perché state facendo felici veramente tanta gente. Una ascoltare tutte le canzoni di Giorgio in una volta così è un sogno per tante persone. Ma Franz, ci vorrebbero sai quante ore? Ci vorrebbero non 2 ore, ci vorrebbero 2 settimane, 2 mesi, 2 anni. Guarda, posso rubare una frase a Obama? È solamente l'inizio questo. Bravo, bravo. Franz, senti. È solamente l'inizio, perché io cioè Paolo ha detto una cosa vera, è sempre in anticipo, te lo dice un batterista, è veramente era in anticipo. È un batterista che è quello che di tempo se ne intende proprio per definizione. Tempo, dice Giorgio, ma è giusto, un acquario, io amo gli acquari, anche perché, cioè, voglio dire, sono persone che stanno sempre un po' di sotto, non hanno una collocazione specifica. E dico, ho davanti a me il libro In logica utopia, curato da Guido Harari, quello curato da Guido Harari, sì. Ti dico solo le due frasi finali del retro di copertina, sto parlando solo del retro di copertina, per immaginare dentro che cosa può trovare una persona che riflette un po' su quello che Giorgio vedeva, perché era un cronista dell'anima proprio, cioè osservava, raccontava, non giudicava, ti diceva solo, io ho visto questo, adesso te lo dico, tu fanne quello che vuoi. Dice, due frasi finali, si dice, perché vi accanite i nemici imbecilli e superati, punto di domanda, perché spargete così male la rabbia che vi consuma? Firmato Giorgio Gaber. Cioè, perché spargete così male la rabbia che vi consuma? Vuol dire che c'è un modo per spargerla bene, la rabbia, se tu la sai usare. E lui era in grado di dare questi messaggi. Io quando ho cantato quella canzone al festival, che è stato... Al pomeriggio non riuscivo neanche a immaginare di poterla fare, mi sono ricordato la sua interpretazione del Grigio che ho visto proprio tante volte, l'ho visto perché c'è stato un periodo che l'ho frequentato molto e ho pensato lui da solo su un palco e lì in quel momento lì mi è proprio venuto, l'ho sentita, perché la canzone l'ho vissuta da pubblico e avevo una chance per poterla fare sul palco e far partecipe poi il pubblico di questa canzone e mi sono commossa alla fine. Chi ascolterà la canzone sentirà che le ultime frasi non sono riuscito a dirle perché sono scese le lacrime e non sono riuscito a dire più quello che volevo dire sul finale, cioè quando è moda, sul finale si rompe la voce ed è tutto vero perché è la registrazione originale di quella serata indimenticabile per me. Franz, che meraviglia, ti ringrazio davvero tanto per questo tuo intervento, io ci tenevo tanto anche perché, l'ho detto io, questa canzone sono legata davvero tanto. Grazie, alla prossima occasione, grazie Franz. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, grande Franz, grazie. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale che riesce anche ad essere fedele comprando sottane, collane e creme per mani. Far finta di essere, non c'è niente da fare, eravamo così nel 73, siamo così anche oggi. Far finta di essere sani, anche lui l'abbiamo riconosciuto, Gianni Morandi. Dalia, Dalia Gaberschik, che è con noi questa sera, in questa serata che stiamo passando, mi piace pensare che la stiamo passando con Giorgio Gaber. Questa canzone che è contenuta sempre in Io ci sono, quando è stata registrata, da dove arriva? Questa è proprio la registrazione live della prima edizione del Festival Gaber del 2004, luglio 2004. Morandi ha preso la chitarra e con la semplicità sua straordinaria, che è solo dei grandissimi, ha preso la chitarra, è salito sul palco e si è messo a suonare Far finta di essere sani. Alla prima, l'avete sentita come è venuta e abbiamo pensato che fosse talmente bella che dovevamo assolutamente restituirla così com'era al pubblico e a questo tributo. Morandi è stato amico di mio papà, si sono frequentati parecchio, dice delle cose bellissime, mi colpisce molto una che mi ricorda sempre, che nonostante fosse un grandissimo personaggio, anche alla fine di questi spettacoli teatrali dove la gente si spellava le mani per applaudire, per mostrare quanto fossero contenti, quanto fossero felici, magari ecco, lui li ritrovava in camerino e insomma era abbastanza pudico nel ricevere i complimenti, no? Ecco, anche se arrivava una persona importante. Morandi dice: quando andavo io in camerino dicevo madonna che bello, ecco, non mi trovavo davanti il personaggione che insomma se la tira un po', dice ah ti è piaciuto, ma una persona molto semplice dice ah sì grazie, ma dimmi di te, ecco cosa stai facendo, ecco, perché evidentemente il rapporto tra loro due era non più quello tra due grandissimi dello spettacolo, ma tra due persone. Oh che bello, c'è qualcuno anche che ci cita Latte 70, c'è una versione di Latte 70 tra l'altro dei Baustelle, bellissima. Io avrei due domande subito da farvi, però non ve le faccio subito perché vorrei leggervi anche una mail che ci ha spedito Miria, e io siccome l'ho già letta un po' mi commuovo perché è molto bella. Allora ci ha scritto: il primo ricordo di Giorgio Gaber è legato a mio padre, eravamo in auto e lui cantava Barbera e Champagne, a me piaceva molto quel motivetto e come tutte le bimbe di 6 anni ero innamorata di mio padre, ascoltavo ogni parola attenta per poterla cantare con lui, cantavamo la ballata del Cerutti, il Riccardo, Non arrossire. Babbo, ma chi è questo cantante che ti piace tanto? Miria, questo non è un cantante, è un uomo che ci racconta la vita, i sentimenti, è un cantastorie di altri tempi. Quella risposta mi è rimasta dentro e da allora, quando trasmettono una canzone di Gaber alla radio, l'atmosfera e il profumo di quelle gite in macchina con mio padre mi riempiono di gioia. Ho continuato ad ascoltare Gaber anche dopo che mio padre se n'è andato, scoprendo l'impegno politico e sociale delle sue canzoni, facendo mio quel cantante che piaceva tanto a mio padre. E questo è il ricordo bellissimo di Miria, che mi ha proprio davvero fatto emozionare, e ci ha scritto a io con Gaber@radio24.it. Io vi dico che i messaggi sono davvero tanti e quindi li metteremo sul sito perché non mi sto perdendo, poi un po' ne leggerò ancora, però ho davvero due domande. Una, ahimè, è un po' delicata, perché Dalia tu hai citato il festival, sono momenti in generale difficili. Qual è lo stato di salute della manifestazione? Lo chiedo al presidente della Fondazione Gaber. Forse sono più aggiornata Dalia, che ho passato un weekend di fuoco in Versilia. Allora, allora è d'attualità, diciamo, la domanda. Ah, sì, perché in realtà Viareggio non ha in questo momento un sindaco, c'è un commissario e insomma evidentemente se c'è il commissario è lì anche per dare un po' una sistemata ai conti, e questi conti non si sa se per questa prossima estate ci consentiranno di fare la manifestazione. Si sono fatti avanti con grande generosità il sindaco di Camaiore e anche i responsabili della cultura di Pietrasanta, magari anche proponendo una versione versiliese, no, del nostro progetto, che forse in occasione del decennale dovrebbe anche avere insomma un'edizione più importante delle altre. Ecco, io mi auguro che abbiamo ricevuto tante lettere, tante testimonianze di stima, di apprezzamento per la manifestazione che evidentemente in questi anni ha saputo portare un bel pubblico, a un grande pubblico Giorgio Gaber, e io spero che qualcosa alla fine si riesca a fare. Ecco, però diciamo che sono momenti un po' duri, e anche insomma le manifestazioni a Milano sono tutte allo studio, perché appunto di definito purtroppo in questo momento, che in Italia non è semplice per nessuno, non sono ancora definite. Noi facciamo il tifo in ogni caso e in ogni modo. La seconda domanda che mi, come si suol dire, sorgeva spontanea, abbiamo sentito Far finta di essere sani, firmata da Gaber e Luporini. Prima abbiamo citato le prime canzoni allegre, scanzonate, siamo tra gli anni 50 e gli anni 60, e la coppia era Gaber-Simonetta. Cosa è successo a un certo punto? Peraltro sto cognome l'abbiamo già sentito nominare stasera, ma deve essere assolutamente una coincidenza, ma poi chiederemo. Cosa è successo a un certo punto? Si forma un altro sodalizio molto importante nella vita e nella carriera di Giorgio Gaber, Paolo Dalbon. Matura un sodalizio, perché Gaber e Luporini si sono conosciuti già alla fine degli anni 50. Gaber forse non era ancora affermato come cantante a livello nazionale quando conobbe Luporini proprio qui a Milano in via Procaccini, e addirittura Il retro del Cerutti Gino è la loro prima composizione, Suono di una corda spezzata. Poi l'amicizia è continuata e la collaborazione è proseguita, c'è stato anche un Sanremo con Così Felice, Gaber Luporini, e è maturata definitivamente quando Gaber ha deciso di dare una svolta assoluta alla sua attività artistica e di occuparsi soltanto di teatro, e da lì in poi Luporini è stato il suo unico compagno di viaggio. Tu ti chiami Luporini di cognome Lorenzo, però sì, dall'altezza da cestista mi suggerisce anche qualcos'altro, però insomma un legame familiare c'è. Sì, sì, è del tutto casuale, insomma non siamo una setta di matti, però... Anche se sarebbe carino tutto sommato. No, non è nessun tentativo di creare il perfetto, no, è del tutto casuale, insomma... Mia mamma si è innamorata di mio papà, che è il nipote di Sandro, cioè Sandro è lo zio di mio padre. E insomma, sono nato io. Cioè, insomma. Però io sono romantica, molto, a me piace. Siamo praticamente anche noi un po' Gaber Luporini, ma non è sì, che sì. Sembra che l'abbiamo fatto per i diritti d'autore, ma non è mica vero. Non... Esatto. Chi lo sa, non potevano farlo Battistimo Gol per ovvie ragioni. Abbiamo fatto un Gaber Luporini. Allora, abbiamo un altro ascoltatore in linea, Francesco da Treviso. Buonasera, Francesco. Buonasera a voi. Lei ha un suo ricordo personale e teatrale, appunto, di Giorgio Gaber. Ma intanto io non sono solito di intervenire perché vedo che tendenzialmente la gente si autorappresenta, ma questa volta voglio fare proprio questo, autorappresentarmi. Ma quest'ora è perfetta. Le concedo di auto... Anche noi ci stiamo un po' autorappresentando e ce lo sta concedendo Giorgio Gaber. Francesco? Anche perché sono in un tratto di autostrada tra Milano e Treviso, che si rappresenta un po' di trade union tra le due cose che voglio dire. Insomma, io lavorando a Milano, però essendo di Treviso, a Treviso a 19 anni, 18 anni, per me è stata una scoperta, perché è stato come quelle scoperte che a quell'età fai e che ti aprono un mondo. È come quando leggi, o come ho sentito il primo disco di John Coltrane, o quando ho avuto il modo di leggere il primo libro di Buzzati. Quando sono andato a vedere Teatro Canzone sono entrato in questo berbenismo trevigiano, una città molto perbenita, una città di provincia, durante un periodo in cui io mi sentivo contestatore, magari borghese, ma contestatore, la città invece si sentiva borghese, sotto un'egida di governi andreottiani, e Gaber riuscì, attraverso qualcuno, era comunista, in quella città a ottenere un applauso penso di 10 minuti. Lavoro, ho una famiglia, pago le tasse, non mi sembra di avere delle colpe, non vado neanche a caccia, per dire. Voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti, non so come mi vestivo come ora. Non proprio come ora, un po' più, sì, jeans, maglione, l'eschimo, perché non va bene, era comodo. Cosa cantavo? Questo poi, volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo, anche canzoni popolari. Bella ciao. Devo parlare più forte? Sì, bella ciao l'ho cantata. Anche l'internazionale, però solo in coro. Sì, quello sì, lo ammetto. Ci sono andato, li ho visti anch'io gli Intilimani, però non ho pianto. Come? Se in camera ho delle foto, dei discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia... manifesti, non mi pare. Forse uno piccolo, sì, Che Guevara. No, quello però no, il pugno proprio non l'ho mai fatto. Beh, insomma, una volta, ero un pugnettino rapido. Come? Se ero comunista. Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente, perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente, invece è giusto chiarirle queste cose una volta per tutte. Se ero comunista. Ma in che senso? Bravo questo Luciano Ligabue in una canzone che abbiamo citato proprio qualche istante fa, Qualcuno era comunista, eccolo qua Luciano Ligabue, è una delle versioni straordinarie, 50 versioni di 50 artisti italiani che hanno dedicato il più grande tributo della musica italiana mai realizzato a un artista, Giorgio Gaber. Noi stiamo passando questa serata, saremo insieme fino alle 23 in compagnia delle straordinarie canzoni di Giorgio Gaber, dei vostri ricordi che ci state mandando davvero numerosissimi, sia al 349-238-6666 via sms, sia via email all'indirizzo iocongaber@radio24.it, ma ci state anche chiamando all'824-0024. Io saluto di nuovo i nostri ospiti perché magari qualcuno si è messo in collegamento solo con noi. Io saluto Paolo Dalbon della Fondazione Giorgio Gaber, il presidente. Buonasera. E poi abbiamo una parte della famiglia Gaber, abbiamo Dalia Gaberschik che è la figlia. Dalia, ma non hai mai pensato di dare una corciatina al cognome? Non c'è mai stata la tentazione? Scusa se sono indiscreta. No, assolutamente sì, soprattutto da quando mio papà non c'è più, nel senso che per me Gaberschik era giusto tenerselo, era il cognome originale di mio papà ed era molto presuntuoso l'idea di cambiarmi io il cognome. Insomma, lui si chiamava Gaber, ma il nostro cognome era Gaberschik, quindi io a scuola mi chiamavo come mi chiamavo davvero. Poi dal 2003 in poi qualche dubbio quando firmo una mail ce l'ho, magari ogni tanto mi firmo anche Gaber. Eh sì, e poi abbiamo un altro cognome illustre, ma abbiamo ci ha spiegato che insomma sono i casi della vita e non è un esperimento genetico, Lorenzo Luporini, che è il nipote di Buonasera. Giorgio Gaber. Buonasera Lorenzo. Però abbiamo detto una parte della famiglia, perché un'altra parte della famiglia probabilmente ci stava ascoltando, non lo so, ci ha telefonato. Buonasera Ombretta Colli. Buonasera, buonasera e tanti complimenti a lei che è una straordinaria conduttrice, così sensibile, così delicata. Proprio complimenti. Ma io adesso mi sto emozionando. Ovviamente io non la posso vedere, ma ha una voce molto giovane, molto accattivante. È bellissima e bravissima. Proprio un momento di grande emozione, perché sentire il mio nipotino, il mio alto nipotino. Altissimo nipotino. Un ospite. E poi la mia straordinaria figlia. Quindi avevo veramente voglia di dire a tutti voi, oltre al presidente Dalbon, grande presidente, che sono persone straordinarie e mi fate passare una bellissima serata. Grazie davvero. Signora grazie Colli, grazie per averci chiamato. Meno male che non ho parlato delle ex fidanzate allora, perché a un certo punto stavo per parlare delle ex fidanzate, non le citiamo neanche. Partiamo solo dall'era Colli in poi. Il prima non brava. C'era, ecco. Vabbè, ma l'era brava. Colli, insomma, dai, vi siete fidanzati che eravate bambini, non è che ci sia poi molto da nascondere, eh? ecco, diciamolo. Mio diciamo. Nipote com'è? È tranquillo, com'è? È sereno. Diciamo di sì, esatto. Ma tra poco arriverà anche l'interrogatorio, perché lui ha lavorato per una parte importante di questo tributo e so che è molto, molto preoccupato, perché tra poco lo interrogherò. Però stia a sentirci, così poi ci dice se siamo stati bravi, signora Colli. Grazie mille, grazie per la sua telefonata. Come sono stata contenta, sono contenta che ci abbia una sorpresa. Che meraviglia. Marta, perdonami, non abbiamo commentato questa versione strepitosa di Ligabue, che invece ci tengo particolarmente a ringraziare, perché si è preso la briga di riprodurre il pezzo ex novo. Questa non è un'incisione, è proprio stato riprodotto da capo, e credo che sia forse la primissima volta che Luciano recita oltre che cantare, per cui insomma credo che sia i professionisti direbbero un evento nell'evento, però fa schifo da dire, però insomma è veramente no, è una vero. Cosa molto molto particolare. Io non so, chiedo anche a mio figlio, mi sembra che sia una bella cosa, no? Sul pubblico giovane. No, sì, credo. Sì, assolutamente, sicuramente Ligabue, il Liga come è chiamato, è un riferimento per gran parte della mia generazione, quindi è un contributo preziosissimo a quest'album. Infatti, Lorenzo, lo chiedo proprio anche a te, non ci sono solo interpreti che possiamo che potevamo già immaginare avessero cantato Gaber, ci sono anche interpreti molto giovani che sicuramente sono più vicini alla tua generazione. Questo che effetto ti fa? Io cito Emma, Marco Mengoni, insomma, esatto, poi abbiamo detto i Baustelli, insomma, sono tanti, anche giovani giovanissimi, questo è importante. Mi fa molto piacere, perché vuol dire che sicuramente le parole di Gaber e di Luporini hanno un valore tutt'oggi, e oltre a questo mi fa molto piacere perché è una possibilità in più per far arrivare cioè far conoscere mio nonno a delle persone che sicuramente avrebbe avuto più difficoltà ad accostarsi al suo mondo, ecco. Cioè. Mi fa impressione sentire mio nonno. Mi fa veramente impressione. Noi siamo molto fortunati. Guarda, in questo momento ho visto che anche Crozza sta facendo qualcosa in televisione per Gaber, dopo aver fatto un generosissimo contributo anche lui al festival. Insomma, abbiamo veramente la fortuna, e io credo che mio papà sarebbe molto sorpreso di questo, di avere un sacco di persone che volentieri si fanno testimoni del loro lavoro. Ecco, io credo che queste partecipazioni che citavi, che sicuramente portano Gaber a mondi anche molto diversi tra loro, siano la cosa più importante per uno dei nostri obiettivi principali, che è quello della divulgazione. Gigi D'Alessio, ma che Gigi dire, D'Alessio, io favorevolissimo, J-Ax, articolo 31, anche con delle versioni un po' sorprendenti, no? Ma Dente, cioè veramente anche da mondi e completamente diversi. E poi appunto dicevi, per esempio, un altro nome che insomma è Patti Smith, di cui andiamo tutti molto fieri. Tra poco, così faccio ancora friggere un po' Lorenzo. Siccome abbiamo parlato di mogli, Davide dalla A1 ci ha scritto un'email col BlackBerry. Oggi ho detto una bugia a mia moglie per sentirvi. Sapevo della trasmissione, ma vi seguo solo al lavoro. Ho inventato una riunione e mi sono messo in viaggio solo ora per sentire Genio. Giorgio. In questo tempo scuro, una luce sicura. Grande. Genio. Beh, assoluto. Devo dire che ci fossero state altre ragioni, non avremmo appoggiato, ma in questo caso sì. Poi ci sono davvero delle bellissime lettere. Anna ci ha scritto a iocongaber@radio24.it. Caro Giorgio, non insegnata ai bambini, mi accompagna sempre, mi commuove ogni giorno quando vado a scuola a svolgere il mio lavoro dietro quella cattedra vecchia, indecente e rovinata. Ma la canzone che più mi manca è quella che avresti scritto per dipingere in modo dolce e amaro, come sapevi fare tu, il cupo panorama in cui è finita la nostra Italia in questi ultimi tempi. Sono certa che avresti trovato le parole giuste per raccontare la verità, per farci pensare e considerare, per farci arrabbiare e per strapparci alla fine un amaro ma confortante sorriso. È vero, amaro ma confortante sorriso. Anna è un'insegnante, quindi è ovvio che le parole giuste le sa trovare. Bellissima. Però è un'espressione efficacissima. Siete d'accordo? Assolutamente sì. Anche perché Gaber è sempre stato soprattutto vitale, una grandissima energia, una grandissima vitalità, e quindi anche la rabbia diventa vita, diventa positiva, diventa propositiva. E un talento d'attore oltre ogni immaginazione, perché lui, anche qui ne parlavamo prima fuori onda, aveva già una grande notorietà in Italia come conduttore televisivo e anche in un certo senso come divulgatore, qualcosa che in Italia non esiste più, chi parli di musica in televisione e magari insegni anche qualcosa. Poi a un certo punto ha deciso che quella dimensione non gli apparteneva più, e allora, già ne abbiamo parlato un po', il teatro e una capacità di essere attore al di là di ogni modello esistente, qualcosa di davvero nuovo. Assolutamente sì, anche perché era unico e oltretutto un attore che scriveva ciò che raccontava, ciò che rappresentava, quindi scriveva soprattutto per se stesso. Ciò nonostante è diventato anche un drammaturgo, perché da quando Giorgio è mancato sono stati tantissimi gli attori, anche non solo cantanti ma anche gli attori, che si sono confrontati con la sua opera, sua e di Sandro Luporini. Beh, li dobbiamo anche ringraziare, oltre che citare, sì. Io penso a Maddalena Crippa, a Gioele Dix, a Luca e Paolo, a Claudio Bisio. Beh, Neri lo volevo tenere per ultimo perché Neri ha fatto 3 stagioni teatrali, tra l'altro con nostra grandissima soddisfazione, sempre tutte esaurite con uno spettacolo che probabilmente è proprio la sintesi migliore del teatro canzone. C'è anche qualcuno che ci saluta via SMS perché dice che ci sta guardando in streaming sul sito della radio. Aia. Insomma, dove ci guardo? Ricordiamo www.radio24.it. Purtroppo io l'avessi saputo prima mi sarei messa un po' più elegante. Vabbè, non importa, è la radio. Accontentatevi di quello che vedete in streaming sul sito di Radio 24. Io però adesso vorrei farvi sentire un altro piccolo estratto da Io ci sono. Continuando la nostra vita normale, si potrebbe capire quello che ci serve, che ci è davvero essenziale. Si potrebbe guardare con un certo distacco quasi sorridendo, tutto quello che accade nel delirio del mondo. Si potrebbe sognare un luogo immaginario un po' inconsueto, un angolo inventato, o forse vero. Il luogo del pensiero, un rifugio dove mettersi a riparo dall'affanno del presente e del futuro, uno spazio abitato dalle cose più vere, come un piccolo mondo che io possa contenere. Il luogo del pensiero è una voce di un'eleganza, oltre questa divina, una voce che noi abbiamo recuperato in un luogo molto noto della Liguria, che è Sanremo, dove si trova proprio adesso. Buonasera Andrea Mirò. Buonasera a voi. Andrea, ciao. Che bella questa. Ciao a tutti. Grande, ciao, Roberta. Ciao. Che bella questa versione. Ma è una versione, direi che, come posso dire, super ultra stringata, però credo che, come sempre, quando si ha a che fare con Gaber, parlino talmente tanto le parole e la musica che poi in fondo non è che bisogna aggiungere molto, no? Perlomeno a me era sembrato che questo pezzo non avesse nessun'altra necessità. E mi ha emozionato sentirlo adesso così alla radio, perché era tanto che in realtà non lo sentivo fatto, no? Ed è stato un momento molto particolare, perché era la prima volta che io salivo sul palco a cantare Gaber. Ed è l'emozione era molta. Quando ti confronti con un nome grosso, è sempre, insomma, ti fai un sacco di domande. E credo che Gaber sia talmente sia e debba essere talmente presente in ognuno di noi, che queste domande non vadano fatte. Semplicemente uno di pancia sceglie cosa fare, per esempio l'artista sceglie cosa cantare e punto, e lo fa e basta, non ti devi chiedere perché poi è tutto è lì, tutto nella canzone, che in questo caso è una bellissima utopia, e lui sapeva raccontare queste utopie con l'amaro in bocca, no? Sapendo benissimo che cos'era la parola utopia, però lasciandoti uno spiraglio e una luce fortissima a cui fare riferimento. Per me almeno è questo. Però Roberto, io te l'ho detto da sempre, tu hai nobilitato tantissimo questa canzone, facendola quasi diventare più importante di quando Giorgio stesso la cantava in teatro all'inizio degli spettacoli. Tanto è vero che sei dovuta tornare diverse volte a Viareggio, perché sì, mi pare che quell'esordio sia stato veramente un tripudio, una roba che ha lasciato sì, tutti senza fiato. Ho veramente tra i più bei ricordi proprio di comunicazione, di feeling col pubblico, devo dire. E me li tengo stretti. Anche noi ce li teniamo stretti, che ti abbiamo guardato e applaudito. Andrea o Roberta, insomma, perché poi valgono entrambi, volevo chiederti, a una interprete ma soprattutto autrice come te, come ci si accosta a un brano di Giorgio Gaber? Con che atteggiamento, con che spirito? Ma ti accosti come ci si accosta a un'opera d'arte, e come se fosse fatta di cristallo, quindi hai paura a maneggiarla, hai paura di poter rompere qualcosa, e ripeto, poi in realtà Gaber aveva questa grande, era bravissimo a dire cose profondissime oppure coltellate nello stomaco, a farti, come dire, piegare in due quasi dalle risate, perché ci sono cose che a me non fanno solo sorridere, veramente mi divertono, e però tutto questo con una, tutto come se fosse di pancia. In realtà dietro c'è un lavoro pazzesco, però quello che arrivava di lui attraverso la sua faccia e attraverso quello, il suo modo di comunicarle queste cose, era poi la pancia, lo stomaco, di quello che vuoi, istintivo, che è il modo principe per comunicare con la gente, e quindi molto più vicino alla gente di quello che non si possa immaginare, al di là dei contenuti, al di là di quello che suggeriva, dello sguardo sul mondo. E quindi poi quando ti poni di fronte a una cosa del genere, la cosa migliore è proprio non farti tante domande, è prendere l'esempio e punto, cioè imparare mentre lo canti, tu impari qualcosa. Per me è questo, oltre al fatto dell'amore proprio viscerale che ho nei suoi confronti, per il modo proprio di comunicarlo. Io fin da piccola amavo Gaber, al di là di quello che potevo capire o intuire che ci fosse nelle sue canzoni, ma proprio lo amavo perché aveva questo modo che io adoravo e che era solo suo di comunicare, questa teatralità esplosiva, e però che sapeva avere tutti i colori, ecco, sapeva dosarsi quando era il momento. Grazie Andrea Miro per questa testimonianza importantissima, anche per questa splendida versione che abbiamo ascoltato poco fa del Luogo del Pensiero. Abbiamo detto, abbiamo colto Andrea a Sanremo, abbiamo anche un amico a Sanremo, un critico musicale, il critico musicale del giornale, Paolo Giordano. Buonasera Paolo. Eccomi, buonasera. Eccolo a tutti. Paolo, senti, è difficile parlare di Gaber in pochi minuti, però insomma volevo anche un tuo intervento, perché abbiamo sentito parlare artisti, abbiamo con noi la fondazione, la famiglia, ma un critico musicale di fronte a un artista così, che cosa può dire? Che cosa, insomma, tu sei troppo giovane per averlo vissuto per tanto tempo, insomma, in diretta, ecco. Però per un critico cosa rappresenta? Ma io mi ricollegherei a quanto ha scritto il tuo ascoltatore di prima, dicendo, rimpiangendo il fatto che Gaber non ci sia adesso per raccontare l'Italia. Io non sono d'accordo, perché penso che Gaber abbia raccontato l'Italia attraverso alcuni pezzi, magari anche vecchi di 20 anni o di 30 anni, abbia raccontato l'Italia che stiamo vivendo, perché ci sono pezzi suoi come Destra, Sinistra, o C'è un'aria, oppure Il corrotto, o La libertà, che raccontano quello che stiamo vivendo in Italia in questo momento. Quindi l'attualità sua è un'attualità trasversale che va al di là del tempo, e che io credo possa sopravvivere ancora per tanto tempo nel futuro, perché io, leggendo i testi di Gaber e Luporini, mi sembrano scritti ieri. Grande ieri. Paolo, grande, grazie. Ed è proprio la grandezza dell'artista. Io credo che la grandezza dell'artista sia quella di sopravvivere al tempo che lui vive e di andare oltre. I grandi artisti, e lo dico senza piaggeria, i grandi artisti sono quelli che ascolti o che vedi o che leggi dopo decenni, anche talvolta dopo secoli, e ti sembra che siano di fianco a te. Ecco, io ascoltando questo disco, e l'ho anche scritto nel mio pezzo, ascoltando questo disco mi sembra di leggere, di vedere una radiografia dell'Italia che stiamo vivendo. Esci di casa e Gaber ti racconta che cosa incontrerai il giorno dopo. Gaber non c'è da 10 anni, e ci sono dei pezzi che hanno 20 anni, 30 anni, come dicevo prima. Questo io credo sia il passepartout proprio di un grande artista, al di là del fatto che di volta in volta Gaber sia stato esaltato oppure criticato, certi pezzi siano stati accolti con l'applauso della critica e altri no, e nel tempo successivo poi la critica li ha applauditi oppure li ha criticati a seconda di come andavano le cose. Questo credo sia veramente come dire, la cartina al tornasole di quanto sia grande un talento. Grazie, grazie a Paolo Giordano, critico musicale del giornale, che in questi giorni è a Sanremo perché ha la grande responsabilità di scegliere, di contribuire a scegliere i giovani che parteciperanno per area Sanremo al prossimo Festival della Canzone Italiana. Quindi Paolo, insomma, penso che queste parole risuoneranno anche negli insegnamenti ai giovani, insomma, di area Sanremo. Devo anche dire, se posso permettermi, che sono ad area Sanremo da un po' di anni e con sempre maggiore frequenza i ragazzi che hanno magari 20 anni, che si presentano con un brano inedito, col sogno di andare a Sanremo, citano tra le proprie influenze sempre più spesso Gaber, ed è una cosa che non succedeva prima, che dimostra, io credo, l'attualità di cui parlavamo. E forse anche che li abbiamo un po' massacrati, dai. Ma no, ma guarda, io non credo, sai, perché quando... Qua mi devo permettere di dire una cosa, perché quando si incontrano dei testi che ti rappresentano, poi l'artista o il cantante o il ragazzo non sta a valutare se si tratta di un testo di vecchio di 20 anni, 30 anni, ma se lo rappresenta, lo assume, lo fa diventare proprio, e questo credo stia succedendo con maggiore frequenza rispetto al passato. Grazie, grazie a Paolo Giordano. Noi ci ritroviamo ancora tra poco perché abbiamo ancora un'ultima mezz'ora da passare insieme, ma vi aspetto ancora tra qualche istante. These are the words of Giorgio Gaber. In this time of inexorable decline, a spreading fear is being concealed by indifference. In such a chaotic time, such a corrupt and chaotic time, that anything could happen to us at this very moment, in this shattered, absurd time, in which we have so much information that, after all, we know nothing. Interrompere Patti Smith è un sacrilegio. Io approfitto del fatto che siamo in streaming video sul sito di Radio 24 per fare una mia mini standing ovation davanti al microfono, perché è veramente, si dice sempre, la poetessa del rock. Insomma, sono delle definizioni così un po' di comodo, un po' giornalistiche nel senso peggiore del termine, però lei è veramente un monumento. E questa canzone, Io come persona, I as a person, è stata tradotta da questo ragazzo di 17 anni che ho accanto, che si chiama Lorenzo Luporini. Lorenzo, trovarsi un testo di un grande poeta che però, insomma, era anche tuo nonno. Eh sì, insomma, grandissima emozione. Tu sapevi già che l'avresti tradotto per Patti Smith? Sì, cioè, insomma, noi speravamo, insomma... Avere Patti Smith al festival è stato veramente un miracolo, quasi potremmo dire. Cioè, ci abbiamo creduto solo quando l'abbiamo vista finalmente sul palco. E io e Greta Bertella, di cui ho già parlato prima, abbiamo tradotto questo testo, insomma, pezzo per pezzo, scambiandoci email alle 4 del mattino, cambiando parole, cambiando frasi. E però, insomma, quando poi risento le parole che abbiamo tradotto, cantate da Patti Smith, è sempre un'emozione fortissima per me, insomma. Siamo molto fieri di quello che abbiamo fatto. Il titolo di questo tributo, questo triplo CD di cui stiamo rubacchiando e cominciando a far sentire in anteprima questi brevi estratti, è Io ci sono, ed è proprio un verso di Io come persona. Tu stesso hai proposto questa brevissima frase. Sì. È un testo importante, e proprio la fine di questo brano, questo acme incredibile, questa apoteosi, sì, è è davvero l'impegno, il rendersi disponibili. Che significato ha avuto per te questo Io ci sono? Che insegnamento è stato? Una disperata ricerca di un titolo che desse il senso e il segno di un'appartenenza. Con Paolo ragionavamo sui gaberiani. Io avevo proposto la razza, mi hanno sbeffeggiato perché non andava bene. E quando Lorenzo è venuto fuori con questa frase, non so se succede, forse succede proprio così. Quando il titolo è giusto, uno lo capisce subito che è il titolo giusto, vero? Io ti dico, ero in spiaggia, in Puglia, e a un certo punto, così, pensavo a tutt'altro, mi viene in mente. Però guarda che Io ci sono non sarebbe poi male come titolo. Mando un messaggio alla mamma che mi dice, ma boh, ci penso. E quindi evidentemente sta con un'intuizione fortunata, come dire. Bravo questo ragazzo. Scusami, che fa ancora il liceo. Io devo assolutamente ringraziare una persona perché hai detto bene tu, Patti Smith è stato un miracolo e questo miracolo è stato possibile grazie a Rita Zappador, che come dice lei è una musicista classica, è una persona molto seria e in realtà si occupa del management internazionale degli artisti più importanti che ci sono, che spesso vengono in Italia, e insomma è grazie a lei. Io posso dire che tutti gli artisti che sono in questo CD, ma tutti quelli che in questi anni hanno generosamente interpretato Gaber, sono stati molestati direttamente da me. Fortunatamente per lei non avevo il numero di telefono di Patti Smith e non sapevo neanche dove abitava. Però avevo quello di Rita Zappador, che è stata veramente un tramite eccezionale, che sicuramente è riuscita a spiegarle chi era mio papà. Arrivano tanti sms di ascoltatori che appunto vi dico metteremo sul sito perché sono davvero tantissimi. Tanti si ricordano quasi con precisione quando, dove, come hanno visto Giorgio Gaber a teatro. Licia da Vicenza: era l'inverno del 67, forse del 68, all'alba dei miei 62 anni la memoria vacilla un po'. Teatro Nuovo, Verona, prima volta che conoscevo Gaber anche teatralmente. Ricordo di esserne rimasta completamente folgorata. Tanti ricordi, un po' di nostalgia. Maledetti pregiudizi mi hanno tenuto lontano da Gaber per anni. Quando ho capito ormai era tardi, ora rimpiango fortemente il grande artista e le opportunità mancate. E Fabrizio ci scrive grazie per come lo state facendo rivivere, grazie Fabrizio. Ma davvero tanti. Allora, era il 92, in aprile, degli amici mi proposero di andare a teatro a vedere Giorgio Gaber. Io lo conoscevo molto poco, scrive Marco, per qualcosa visto in TV e non mi pareva un granché. Dopo quella sera, che non dimenticherò mai, ne uscii entusiasta. Ogni volta che veniva a Mestre non me lo sono più perso e con lui io e mio fratello abbiamo ricominciato a trovare un qualcosa in comune dopo tanto, troppo tempo. E anche questa è davvero importante. Io passerei a un altro brano perché io continuo a commettere un errore, perché io dico 50 brani, ma non sono proprio 50, perché sarebbero in un certo senso anche 53. Sentiamo qua. Quando sarò capace d'amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace d'amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Abbiamo detto ci sono 50 brani in questo Io ci sono, e poi ci sono tre chicche in più che sono tre perle. Una di queste perle è la favolosa Quando sarò capace d'amare, uno di quei testi che proprio sono una coltellata, ma nel senso buono, che ti tirano fuori tutto quello che hai dentro. E abbiamo riconosciuto Ron. Buonasera Ron. Buonasera a tutti. Grande, ciao, Rosalino, Ron, ciao. Ciao, ciao Dalia, ciao a tutti. Ciao. Ron, com'è stato interpretare questa Quando sarò capace d'amare? Ma intanto è stato fantastico scoprirla, perché non l'avevo mai sentita. Poi avevo in mano un libro con i testi di Gaber, ero in macchina, mi ricordo, e andai su questo titolo che mi colpì molto, perché immediatamente mi portava a qualcosa di particolare, di qualcosa in cui qualcuno avesse voglia di fare una confessione con grande umiltà, e ho letto questo testo fantastico. Lì non ho potuto fare a meno poi di cercare invece la canzone completa, e quando la sentì, ecco, fui rapito proprio perché mi sono visto dentro. Per cui ho cercato, e Dalia lo sa, anche di trovare il modo di poterla cantare meglio con vari arrangiamenti, ma non ero mai contento, perché in fondo volevo cantare la verità di quel testo, e la verità l'ho trovata a Los Angeles. Ero lì per un'altra cosa, e sono entrato in studio una mattina, mi sono alzato cantando la canzone dentro la mia testa, e sono andato in uno studio, ho chiamato dei grandi musicisti, e in diretta in questo studio abbiamo fatto la base. Oserei dire, è una parola che uso molto, ma è una parola che fa capire anche molto, con leggerezza l'ho cantata, e con leggerezza credo di averla incisa, per cui il risultato credo che si rispecchi molto, ecco, nel testo della canzone, e anche nell'intenzione di Giorgio, forse, che aveva quando l'ha cantata. Ron è un altro artista che ha deciso di dedicarsi anche ai giovani, trasmettere cose ai ragazzi, che anche questa è una cosa importantissima. Secondo te qual è la lezione, che cosa bisognerebbe trasmettere ai giovani artisti di Giorgio Gaber, Ron? Ma ai giovani artisti intanto di pensare, perché e viviamo un mondo in cui i giovani artisti non fanno altro che puntare a trasmissione dove si diventa famosi e basta, insomma, in qualche modo, anche quelli bravi, per carità, ma per esempio guarda caso non ce n'è uno che scrive di questi che vengono fuori. Questa è una cosa triste, per cui la prima cosa da fare, io ho una scuola, voglio dire, per cui la prima cosa che chiedo a ragazzi che arrivano e vogliono cantare, eccetera, è quello di imparare uno strumento e di provare a buttare giù tutto quello che hanno dentro. E ecco, credo che questo sia il consiglio più grande, perché non c'è stato più un ricambio generazionale, per cui nessuno più scrive. E questo è molto triste, perché l'Italia, voglio dire, abbiamo poi i nostri grandi maestri, compreso Giorgio, insomma, che ci pensava a scrivere e a pensare. Grazie, che meraviglia aver avuto anche Ron in questa serata che stiamo dedicando a Giorgio. Dovevi esserci la prima volta che l'ha fatta Rosalino a Viareggio, era proprio particolarmente ispirata a quella serata del 2004, e poi qualche mese dopo ha comunicato a Paolo e alla fondazione, a tutti noi, che insomma gli era piaciuta molto anche a lui, e che aveva deciso di inciderla. Per questo è così preziosa, e anche stata avuto la canzone, dico, la grande opportunità di essere suonata così magnificamente, e insomma dobbiamo veramente grande riconoscenza, perché ecco, Ron l'ha proprio divulgata, l'ha proprio portata in giro davvero. Sì, no, ma poi soprattutto, ecco, non era mia intenzione sfruttare Gaber. No, ecco. Se l'abbiamo capito benissimo. Cioè era veramente, cioè, mi ha rapito la canzone, per cui poteva anche essere di uno sconosciuto, ecco, poi il fatto che l'abbia scritta Gaber è chiaro che aggiunge dei punti in più. Comunque, grande. Rosalino, scusa, aggiungo solo una cosa: forse i giovani scrivono poco perché voi avete scritto troppo. È vero. Certe canzoni. Allora, Ron è stato rapito da Gaber. Io in questo momento sono stata un po' rapita da Ron, perché sono un po' in ritardo e devo lanciare le informazioni per chi viaggia. Davvero tante grazie a Ron, grazie a voi. E ci ritroviamo tra pochissimo. E tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? A fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. E tutti i film che fanno oggi son di destra, se annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Accidenti, questa versione di Marco Mengoni di Destra Sinistra, che è una delle canzoni che ci hanno più evocato i nostri ascoltatori nei tantissimi, nella valanga di messaggi. Io mi devo scusare, ma mi sto perdendo, sono veramente tanti i messaggi arrivati per Giorgio Gaber e questo è davvero importante. Peraltro c'è un bellissimo video di Destra Sinistra sul sito del Sole 24 Ore, sul sito del sole24ore.com, me lo stavo guardando poco fa, davvero davvero bello questo video di Destra Sinistra. Questa versione di Marco Mengoni, ma pazzesca, funky, molto funky. Ci piace davvero tanto. Tra l'altro le mail degli ascoltatori, davvero in tanti si ricordano proprio i dettagli, ricordi lontani ma sempre vivi, ci scrive Antonella. Teatro Lirico, Via Larga, Milano, decine di anni fa, uno spettacolo magico, il teatro, scritto maiuscolo, quello vero, non lo spettacolo, il teatro che ti coinvolge, entra nel tuo cuore e per sempre. Eravamo giovani studenti con tanti sogni, Gaber ce li supportava, tutti i nostri sogni, e ora riascoltandolo ci emozioniamo ancora e sarà per sempre, ci ha scritto Antonella. E poi ci ha scritto Andrea degli Alti e Bassi. Io vi conosco Alti e Bassi, vi sento anche ogni tanto in radio. Sì, sì, Andrea, però ci confessa una cosa. Le mie prime canzoni imparate a 8 anni sulla chitarra erano quelle di Gaber. All'età di 11 anni tenni il mio primo concerto da solo con la mia prima chitarra per una scuola elementare e cantai Lo Shampoo e Quello che perde i pezzi, due canzoni che mi hanno accompagnato per una vita e che ho cantato e suonato ovunque. Però cosa faceva? Lui non diceva che erano di Gaber. Ancora a distanza di tanti anni ne ho 48 amici che dicono: per anni ho pensato che quelle due canzoni fossero tue, poi un giorno scoprì che erano di Gaber e da quel giorno scoprirono un mondo. Vabbè, insomma, grande, grande Andrea, bravi gli Alti e Bassi. E poi ci sono gli ascoltatori che ci chiamano. Abbiamo anche un ascoltatore un po' particolare che ci ha chiamato. Buonasera Davide Paolini. Ciao, buonasera. Il nostro gastronauta. Davide, ci stavi ascoltando? Eh sì, certo, non mi sono mosso, ho lasciato anche il cibo stasera. No, il gastronauta ha lasciato il cibo per Gaber. Senti, ho provato un'emozione incredibile perché Gaber per me, mentre facevo l'università a Firenze, Scienze Politiche, è stato straordinario. Andavo a vedere Sinologia alla Pergola e quando poi dovevo studiare Scienza della Politica o Dottrina dello Stato, dicevo, beh, le sue canzoni sono un maggiore insegnamento di democrazia e di quello che si vive tutti i giorni rispetto a questi testi che non servono assolutamente a niente. Quindi Libertà, Destra, Sinistra, ma tanti altri, secondo me hanno un contenuto straordinario di riflessione. Io allora appunto si vivevano gli anni anche abbastanza mossi dell'università e magari uno era un eretico che andava a vedere il signor G, però era veramente straordinario, è stato un periodo di quel mio periodo universitario che identifico molto con Giorgio Gaber. Senti però Davide, quante trasmissioni abbiamo fatto sul vino e sempre con Barbera e Champagne sottofondo? Confessa, non le abbiamo fatte. È vero, era la colonna sonora che io avevo scelto. Sì, perché sai, Barbera e Champagne secondo me sono due posti che si toccano. Ed è anche quella è stata una cosa fantastica, perché appunto si può amare lo champagne, si può amare la Barbera allo stesso tempo, anche se sono vini completamente diversi, di costo diverso, di tradizioni diverse. E questo poi era un po' anche destra-sinistra, secondo me. Sono questi opposti sempre che venivano messi a confronto. Che sono veramente straordinari. Ma io ho ancora il signor G, parecchi padelloni ancora di allora, quindi ogni tanto me li ascolto anche. Meraviglia, grazie Davide di averci chiamato. Che bello sentire anche il gastronauta che ci ha fatto compagnia. E poi abbiamo Franca da Venezia. Buonasera signora Franca. Buonasera a voi. Signora Franca, lei cosa faceva? Pronto? Eccola qua, signora Franca, la sto perdendo, sì. Eccoci. Signora, sì? Ma ha per caso vicino un cellulare che fa interferenza? Perché sentiamo dei rumori strani. Sento piuttosto qualche strano interferenza. Ma io la sento abbastanza bene. Ci dica un po', lei cosa faceva quando aveva 18 anni? Io andavo a scuola come tutte le ragazze, o quasi tutte in quei tempi. E in questo paese si è verificato che Gaber arrivava col suo complesso. E le devo dire che a me piaceva moltissimo. E succede che è stata la mia prima uscita serale, accompagnata da questi due miei amici, e siamo andati ad ascoltare il Giorgio Gaber, allora giovanissimo, e io me lo ricordo, era con una giacca bianca, magro, magrissimo, eravamo tutti molto magri allora, e si è seduto dietro di noi e abbiamo fatto questa fotografia che io conservo ancora. Oh, che allora meraviglia, la vorremmo vedere, signora Franca. Ce la mandi, signora. Ce la mandi. Gliela manderò. Che meraviglia, Gaber. Ecco, signora Franca, sì. Io la ringrazio davvero tanto per il suo ricordo, con il quale purtroppo dobbiamo chiudere la trasmissione. Grazie, signora Franca. Intanto, secondo me, potremo già cominciare a sentire qualche nota di una canzone sulla quale vorrei salutarvi. Una canzone molto bella, e poi mi piace sapere chi l'ha cantata, perché insomma sono un po' sentimentale, quindi adesso capirete anche voi perché mi commuove un po'. Anche tanti nostri ascoltatori ci hanno scritto, e ci hanno scritto tanti insegnanti, perché abbiamo letto la mail di un insegnante, altri insegnanti hanno scritto: anche per me è importante non insegnate ai bambini. La canta Laura Pausini, la stiamo sentendo, e quindi lei che sta diventando mamma già sa che dovrà, ha già degli insegnamenti pronti, e anche di quello che non va insegnato ai bambini. Purtroppo siamo alla chiusura di questa serata, che è volata, due ore che sono volate. Quante canzoni avrei voluto sentire di questo Io ci sono. Martedì, vero Dalia? Martedì esce. Martedì 13 novembre, 50 più 3 canzoni di Giorgio Gaber, il più grande tributo della musica italiana ad un grande artista che noi vogliamo continuare a ricordare. Io ringrazio chi è stato con me questa sera. Intanto ringrazio Paolo Dalbon, grazie, presidente della Fondazione Gaber. Ringrazio Dalia Gaberschik, la figlia, Marta, di Giorgio. E poi tanto. Questo esordio radiofonico promosso Lorenzo Luporini. Bravo Lorenzo. Il nipote e un ragazzo con un grande avvenire. Grazie davvero a tutti, un grazie agli ascoltatori. Vi prometto le vostre mail, i vostri messaggi. Metteremo tutto sul sito di Radio 24, davvero tanti. Grazie a tutti, grazie a Stefano Catone in assistenza, grazie a Pietro Lacorte in regia. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona serata. Grazissime, buona serata. Brava.